Radio 24 Reportage. Triboniano, storia di piccoli rom, di Cristina Carpinelli. L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Abbiamo scelto di aprire questo lavoro con un contrasto, perché quando si parla di Rom si parla inevitabilmente di contrasti. Le parole di Giorgio Gaber cozzano fortemente sulla protesta di Ponticelli nel Napoletano. Ve le ricordate quelle giornate? La gente del posto gridava di andarsene ai Rom e che se non se ne fossero andati li avrebbero bruciati. In pochi giorni dalle parole si passò ai fatti. Bottiglie incendiate lanciate sulle baracche dei Rom, fiamme e fumo nero, mentre chi abitava quella baraccopoli scappava. Era il 2009, ma oggi la musica non è cambiata. A Roma gli sgomberi dei Rom sono stati fatti in molti casi senza garantire alcun tipo di assistenza. Lo stesso è accaduto a Milano. I bambini che andavano a scuola non ci sono più andati. Chi ha resistito ha attraversato la città sotto la pioggia pur di arrivare puntuale al proprio banco. Ma a un certo punto anche quei bambini battaglieri si sono dovuti arrendere. E ora non si sa dove siano finiti. Dunque i Rom hanno bambini e i loro bambini sono fantastici. Lo so che sei rumeno. E io sono italiano. Non fa che. Sei italiano? Tu come rumeno? Ti chiami? Rumeno. Anche io sono. Io cazzo di anche un po' italiano. Non si salam. Salam perché stai turbato. Voglio cantare Salam per System Turbato. È una canzone, ma non è italiana. Cantatela. E lui la sa cantare. No, non è vera. Perché lui è vero. Sì, è vera. Io ho Ruscine. Io ho Ruscine. Sentite, ma com'è che si vive qui in questo campo? Bene. Bene. Siete tutti amici? Sì. Sì. E i bambini, vi volete bene tra di voi? Sì. No, io no. Ma la scuola è bella, la scuola italiana? Uguale mio fratello. Lui dice sempre no, è il signor no lui. Io sono il capitano. Tu sei il signor capitano? Io sono Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme sei? Sì. Ma che giochi fate qui? Io sono Cicchicene Bronzi. Nascondigni ce l'hai. Io sono Cicchicene. Questi bambini sono stati fortunati perché vivendo nel campo di via Triboniano godranno di un ritorno in Romania dolce, potremmo dire assistito, come ci racconta Anna Di Fonso della Fondazione ABSI. Mi occupo dei progetti che riguardano la Romania e in particolare su questo progetto di reintegrazione sociale di nuclei familiari Rom di via Triboniano, posso dire in sintesi che è un progetto in collaborazione con diversi partner con cui abbiamo appunto elaborato la proposta alle famiglie che abbiamo incontrato, e sono il Comune di Milano, la Prefettura, la Caritas e la nostra controparte rumena Fundazia. Questo progetto è un progetto non di rimpatrio, ma un progetto di reintegrazione. Perché via Triboniano, per le famiglie Rom che sono qui a detta loro, non è più un luogo di reintegrazione, ma è un luogo, diciamo che è un marchio per loro. È un progetto che vede il ritorno di questi nuclei familiari nei loro territori di origine. Prevalentemente provengono da 4 distretti della Romania, dei 42 totali, al sud della Romania. Rientrano nei loro nuclei familiari di origine e quindi hanno lasciato alcuni appunto i nonni, altri fratelli e riescono appunto con il contributo che si dà loro a ricostruire la casa e a pensare, questa è la seconda fase del progetto che stiamo affrontando, a reinserirsi non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista lavorativo. Nella prima fase del progetto sono trascorsi 6 mesi dall'inizio effettivo del progetto, già 25 nuclei familiari sono rientrati nelle loro comunità di appartenenza, altre 20 si preparano in questo mese, inizi del mese prossimo, a rientrare. Dal punto di vista proprio economico, ad esempio, come li sosterrete? Allora, è previsto che sia data loro una cifra che ha praticamente il compito di sostenere questo rientro, di provvedere al fabbisogno primario delle famiglie e dei bambini, quindi è strutturato come un contributo mensile che viene dato a famiglia, chiaramente in rapporto anche al numero dei minori presenti nella famiglia, e ad un progetto di reintegrazione, cioè praticamente ciascun nucleo familiare si ricostruisce la casa, la sistema, prende nuovamente contatti con le scuole, quindi reinserisce i minori in un percorso scolastico che noi provvediamo anche dal punto di vista formale che sia riconosciuto rispetto a quello che hanno già fatto qui in Italia. Quello proposto è dunque un ottimo progetto di collaborazione tra istituzioni sia a livello locale sia a livello europeo, perché come avete sentito si prevede un ponte tra la ONG italiana e quella rumena. E questo in qualche modo è un dato incoraggiante rispetto a quanto avevamo visto poco prima che l'Europa decidesse di allargarsi all'est. In quel caso, viaggiando per i nuovi paesi europei, incappammo in aree simili, come quella di Via Tribognano, anche in Slovacchia, Slovenia e Ungheria, tanto che l'Associazione Europea dei Rom, con sede a Bucarest, ancora oggi non smette di redigere bollettini di sgomberi coatti, aggressioni e atteggiamenti xenofobi. Questa è la vostra casa, è una stanzetta piccola piccola? Non è adatto a niente, con 2 bambini, lei va alla scuola, niente. Niente. Romania. Sì. Da quanto tempo siete qua? 10 anni. 10 anni duri? Fatica dura? Sì, sì. Inverno come si fa? Anche la mia bimba sta malata, non è dato niente. Niente per andare in Romania, va all'ospedale con lei, il Galeazzi. Non è dato niente. Chi vive nel campo rom di Tribognano ne ha visto di fango, freddo, topi, malattie, storie brutte, perché fino a qualche tempo fa qua dentro non c'erano solo le famiglie come oggi, ma c'era di tutto. C'eravamo venuti qualche anno fa ed era un campo gigantesco, diviso per aree di provenienza e per anzianità. Gli ultimi arrivati si dovevano accontentare di una scatola di cartone in cui vivere. I veterani, o i più violenti, avevano la baracca in compensato. Oggi, a Milano, in via Tribognano, ci sono pochissime famiglie e si stanno preparando a partire, attraversando parte d'Europa per giungere in Romania, con la macchina o la corriera. Ma voi cosa fate adesso? Tornate in Romania? Allora cosa dobbiamo fare qua? Mi lasciano fuori? Da quanti anni vivevate qua? Ci abbiamo 10, 12, 13 anni qua. È dura vivere così però, eh? È dura, adesso non c'è lavoro, non c'è niente. Sono problemi per tutti. Ma lei torna in Romania e cosa fa in Romania? Vediamo cosa faccio. Ne sistemiamo, vediamo. Allora, se non c'è posto qua... Qua spaccano tutti. Ma chi viene a spaccare? Vengono a tirare via tutto, già hanno comprato qua questo terreno, li mandano via. Non lo so. È meglio che ci prendiamo i soldi e ce ne andiamo giù, se loro hanno deciso così. Ha capito. Tu sei giovane, quanti anni hai? Io ho 22. Sono cresciuto qua io. Sei cresciuto qua in questo campo? Quanti anni avevi quando sei arrivato? 8 anni, 9 anni. Quindi cioè praticamente 14 anni che vivi qua? Di più. Bene, nessun problema qua. Tu sei andato a scuola qui anche? Appunto, come no, ho studiato qua. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza non è un insieme casuale di persone. Non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri